Contro il sistema, contro la sorte, troppe cose sono andate e vanno storte, troppe mani di bimbi innocenti e innocue che cuciono palloni e che in cambio ricevono botte, troppe scuse bigotte per giustificare bombardamenti infami di notte di una guerra che traccia rotte di sangue tra popolazioni multilingue. È un mondo perfetto che viaggia verso il progresso, ciò che ci viene concesso esposto in gran parte nascosto, l'altro emisfero con la testa nel fosso maltrattato e scosso e chi cerca di sopravvivere bilico tra piangere o ridere. E ancora non mi spiego come su questa terra più di una nazione possa giocare a fare Dio e sotto questo nome si permetta di infilare agli sterilizzati nelle vene di detenuti tenuti per anni in una cella 2x2 celebralmente spremuti, la morte dietro un vetro trasparente aspettando i potenti, la falce incombente considerata giusta e innocente. Si vive per il cash, questo è il concetto, ciò che ci viene proposto al posto di un mondo perfetto. Si sbattono soltanto per i loro interessi, falsi come Giuda che ci hanno pigliato per fessi, oppure per ciechi, prima amiconi poi pronti a pugnalarti quando non li vedi, quando non li vedi, quando non li vedi.